e voglio subito tagliare la testa al toro e iniziare, senza bando alle ciance. L'intro del mio messaggio parte con tre stralci da tre Vangeli. Ed è interessante vedere come il Vangelo di Marco, il Vangelo di Luca, il Vangelo di Matteo, esattamente al capitolo 8, 9 e 16, nei versi che potete vedere sullo schermo, dichiarano le stesse parole che Gesù ha dichiarato. Ora, se tre di coloro che hanno scritto i Vangeli hanno ritenuto importante, fondamentale, sotto la guida dello Spirito Santo, di scrivere queste parole, vuol dire che sono delle parole importanti, che se ci siano sfuggite in Matteo, le possiamo recuperare in Marco. Se ci sono sfuggite in Marco, le possiamo recuperare in Luca. Se ci sono sfuggite in Luca, forse dobbiamo leggere attentamente, perché magari non stiamo leggendo bene la Bibbia. E quindi è come quando tu leggi qualcosa, poi ti dimentichi e fai comunque di testa tua. E che cosa dice Gesù? Se uno vuole venire dietro a me, che cosa deve fare? Deve rinunciare a se stesso. Deve prendere la sua croce e mi deve seguire. Perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi perderà la sua vita per l'amore mio e del Vangelo la salverà. Sapete, quando leggo questo, mi ricordo di quando io ho alzato la mano. Ho detto, Gesù, io ho bisogno di te e ti voglio nella mia vita come mio personale salvatore. Tutti questi ce l'hanno. E magari non lo so neanche che cosa fanno con questa cosa. Però io la voglio per me, perché questo è quello che tu hai preparato anche per me. E quando noi abbiamo riconosciuto questo, abbiamo riconosciuto la verità che Gesù non è venuto a cambiare la nostra vita. Gesù non è venuto a trasformare la nostra vita. Gesù è venuto a salvare la nostra vita. Stiamo attenti, perché tante volte prendiamo il fatto che abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore come un percorso, come dire, terapeutico, dove dobbiamo impegnarci per diventare delle persone migliori. Ora, ci sono tanti bellissimi corsi, anche validi, che forse è il caso che tu faccia, ok? Non sto dicendo che è una cosa brutta, ma aver accettato Gesù nel nostro cuore come nostro personale salvatore non ha niente a che vedere con questo. E sapete perché? Stefano l'ha citato qualche settimana fa. Romani 3:23 e Romani 6:23 dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, perché il salario del peccato è la morte. Ma, buona notizia, il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Ora, un peccatore non può migliorare la sua condizione di peccato. Mi dispiace dirtelo, però siamo peccatori. Noi, da peccatori, non possiamo migliorare la nostra condizione di essere peccatori. Sapete perché? Perché il salario del peccato, la ricompensa del nostro peccato, grande o piccolo, rimane comunque la morte. Non è che se tu pecchi di meno il salario non c'è più. A posto, sono salvato. No, rimane comunque la morte. Quindi non c'è possibilità di cambiamento. Non c'è possibilità di trasformazione. C'è un'unica possibilità, che è quella della salvezza. Gesù ha offerto a noi una via d'uscita. E Gesù non è venuto per aiutarci a dire meno parolacce. Gesù non è venuto a aiutarci a guardare meno la pornografia. Faccio qualche esempio, no? Non vi spaventate. Gesù non è venuto a farci dire meno bugie, le bugie bianche, quelle belle, quelle che ci aiutano a dire le cose belle. Gesù non è venuto a fare questo. Quando noi abbiamo detto di sì, non abbiamo detto di sì a dire ok, beh, mo vediamo, quasi quasi, io speriamo che me la cavo, in un qualche modo ce la farò a diventare migliore di quello che ero ieri. No, quando noi abbiamo alzato quella mano, noi abbiamo detto di sì a Gesù, perché lui è la nostra redenzione. E quando ci siamo battezzati, e se non lo hai ancora fatto, che cosa stai aspettando? Parentesi. Quando siamo entrati e siamo stati immersi in quell'acqua, noi siamo morti. Noi siamo morti. Noi abbiamo deciso che la nostra vita la volevamo perdere. Basta. Avast. E quando siamo emersi dall'acqua, siamo risorti. Siamo diventati una nuova creatura. Non una creatura un po' migliore rispetto a ieri, non una creatura che forse è stata un po' purificata di qualche cosettina, però attenzione, io sono fatto così, questa cosa è proprio difficile, non la posso, non posso rinunciare. Noi siamo risorti ad una nuova vita. Non era una cosa simbolica, non era una cosa scenografica, che ci piace, che ci dobbiamo bagnare tutti e quindi dobbiamo fare questa cosa bella solo perché Gesù l'ha fatta. Abbiamo dichiarato morte al peccato e a Satana. Abbiamo dichiarato io sono morto a tutto e abbiamo dichiarato che siamo vita a Cristo e alla sua chiamata per noi. Questo è quello che abbiamo fatto. Non serve che ci vediamo qua la domenica. Se non abbiamo vissuto questo, se non vogliamo vivere questo. E sapete, il titolo del messaggio di oggi, questa era solo l'introduzione, giusto per scaldarci, ok? Il titolo del messaggio di oggi è Salvati per salvare. Gesù ci ha salvato, ci ha salvato. Tu puoi essere la persona più brutta di questo mondo. Tu puoi essere Adolf Hitler, che ha causato forse uno dei più grandi genocidi nella storia dell'umanità, o tu puoi essere Mahatma Gandhi, pacifico sotto un pino, non so che albero era, a fare meditazione e a preoccuparsi che neanche le mosche venissero ferite. Sia Adolf Hitler, sia Mahatma Gandhi sono peccatori. Sia Adolf Hitler, sia Mahatma Gandhi, se non accettano Gesù, se non lo hanno fatto, e non sono morti e risorti nel loro cuore a Cristo, andranno nello stesso posto. Questo è forte, perché tu dici, come? Hitler fa schifo, nessuno lo potrà mai salvare. Forte questa cosa. Ma tu non lo sai che cosa è successo a lui prima che fosse morto, prima che morisse. Chi lo sa? Ora, noi siamo stati salvati per salvare gli altri che non lo sono ancora. Noi siamo stati salvati per essere dei portatori sani di questa salvezza che abbiamo ricevuto a tutte le persone che ancora non l'hanno ricevuta. E sapete, secondo me, uno dei più influenti portatori sani di questa salvezza è senza dubbio il discepolo Stefano. Ora, ad un certo punto negli Atti, dopo che Pietro si è alzato in piedi e la moltitudine ha accettato Cristo, hanno detto, ehi, noi vogliamo morire a noi stessi e seguire questo Cristo che tu hai predicato. Che cosa dobbiamo fare? La Chiesa è cresciuta. Quindi i 12 discepoli, i 12 apostoli, non riuscivano più a fare tutto quello che dovevano fare, quindi si sono fermati e hanno detto, ok, è importante che noi non trascuriamo le vedove, gli orfani, i poveri, che comunque tra 5.000 persone sono tantissime, dobbiamo prenderci cura di loro. Quindi eleggiamo dei diaconi che possano prendersi cura di questo. Ed eleggono 7 diaconi, tra cui Stefano. Sapete come eleggono, quali sono le caratteristiche che loro cercavano per queste 7 persone che dovevano servire alle mense delle vedove e dei poveri? Boh, servire alle mense significa che tu devi andare a preparare il posto, magari preparare da mangiare, o assicurarti che qualcuno lo prepari, assettare il posto, servire i piatti a queste centinaia o migliaia di vedove ed orfani, recuperare tutti i piatti, lavarli, perché non è che stavano nelle lavastoviglie, conservarli, riassettare il posto e rifare di nuovo, perché io credo che con centinaia di persone, tra colazione, pranzo e cena, la giornata se ne andava così. Qualcosa di molto semplice, qualcosa di molto pratico, qualcosa che noi definiremmo non spirituale, è vero? Eppure, Atti 6, scelgono Stefano, dal verso 5, un uomo pieno di fede e di Spirito Santo. Questa era una caratteristica importante per fare qualcosa di pratico. Serviva qualcuno pieno di fede e pieno di Spirito Santo. E al verso 8 leggiamo che Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Cioè lui non è che diceva, mo, questi mi hanno messo qua a dar da mangiare, e loro a leggere la parola, a pregare, a predicare, ci so bello. No. Stefano com'era? Era pieno di fede, era di buona testimonianza, era pieno di Spirito Santo. Chi era Stefano? Sara ce ne ha parlato domenica scorsa. Quello che era lo ha portato in quello che faceva. E quello che faceva è diventato qualcosa di straordinario. Perché lui, pieno di fede e di Spirito Santo e pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo. Era acceso, sapeva che era stato salvato perché doveva salvare. E forse il suo salvare in quel momento significava dare da mangiare a chi non poteva averlo. Cosa succede quando tu dici di sì a Gesù e vai come un ariete a sfondare le porte e le pareti che sono chiuse? Che inizia qualcosa che a qualcuno non piace e gli dà fastidio. E hanno iniziato a perseguitarlo. E al verso 12 gli dice che questi cirenei, alessandrini della Cilicia, dell'Asia, i liberti, gli sono venuti lì addosso, lo afferrarono e lo condussero al Sinedrio. Al Sinedrio e presentarono dei falsi testimoni. Falsi testimoni, così non tacchia il microfono. Dei falsi testimoni. Quante volte noi ci sentiamo falsamente accusati, che ci dicono le cose che noi non abbiamo detto e che noi non abbiamo fatto e ci offendiamo. Allora hanno presentato dei falsi testimoni che hanno iniziato a dire delle bugie su di lui e su quello che era il suo lavoro e su quello che lui stava facendo per dare Gesù. E cosa succede? Che ad un certo punto, in Atti al capitolo 7, gli fanno delle domande e Stefano spiega tutto quello che è stato il messaggio della croce di Cristo dall'Antico Testamento fino al Nuovo Testamento, al giorno loro, in una maniera così eccellente, in 53 versetti del capitolo 7. E al 54esimo verso dice così, dal 54esimo verso dice che poi tutti quelli che stavano nel Sinedrio, che avevano detto, beh, mo, sentiamo che cosa ha da dirci, quando hanno finito di ascoltarlo, fremevano di rabbia in cuor loro, digrignavano i denti contro di lui. Non so come... Così, come delle bestie, insomma. Ma Stefano, ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra. E disse, ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui e, cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. Questa è una frase che stiamo per leggere che ci svela un dettaglio che andremo a vedere più in là. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato e lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva, Signore, accogli il mio spirito. E poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce, Signore, non imputar loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. Ora, non so se voi avete capito com'è la lapidazione. Cioè, la lapidazione è che l'hanno portato fuori, hanno iniziato a prendere delle pietre da terra e gliele hanno buttate addosso, fino a quando tu muori. Cioè, non è una passeggiata di salute, no? Cioè, se tu ti trovi fuori, in mezzo alla campagna, e ti iniziano a buttare le pietre addosso, fino a quando tu muori, non è che tu, ripieno di Spirito Santo, almeno io, non so, fisso gli occhi al cielo e vedo la gloria di Dio e Gesù Cristo seduto alla destra e poi dico, ecco, vedo i cieli aperti e dico, Gesù accogli il mio... Cioè io un po' una faccia brutta la farei, un po' un pensiero peccaminoso, fatemi dire così, mi verrebbe in mente. Non so se entriamo nella verità del racconto storico di quello che è accaduto. Ho mancato di dire che ad un certo punto, nel verso 15 di Atti 6, tutti quelli nel Sinedrio hanno fissato gli occhi su di Stefano e hanno visto il suo volto simile a quello di un angelo. Tu immaginati, giudicato con falsità, che ascolti tutto questo e la tua faccia è simile a quella di un angelo. Io credo che sia straordinario tutto questo. Ed è ancora più straordinario che quel Saulo, al quale avevano deposto le loro vesti, chi stava lapidando Stefano, al verso 1 del capitolo 8 dice che Saulo approvava la sua uccisione. Era soddisfatto. Ben gli sta. Così doveva andare. E non contento, verso 3, Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, trascinando via uomini e donne e li metteva in prigione. Sapete, la cosa che mi piace di Stefano è che lui era un uomo ripieno di Spirito Santo, di fede, ma non solo, era un uomo che operava miracoli, che operava opere potenti. E io credo che forse sia arrivato il tempo per te di fare sul serio. Perché non basta che sei ripieno di fede, non basta che sei ripieno di Spirito Santo, serve che inizi ad operare miracoli, ad operare opere potenti. Perché se lo ha fatto Stefano servendo ad una mensa alle vedove e ai poveri, lo puoi fare tu, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo posto di lavoro, con i tuoi amici a scuola, con i tuoi colleghi all'università, con quelli che incontri al supermercato, con quelli che sono nel pianerottolo di casa tua. Però devi stare attento. Perché a Stefano è successo qualcosa di molto grave. Quando ha iniziato a fare tutto questo, la persecuzione è arrivata. Quando noi diciamo di sì e facciamo sul serio, la persecuzione arriva. Perché dare Gesù è scomodo. E incontra opposizione e persecuzione. E tu devi metterlo in conto. Io devo metterlo in conto. Però puoi abbracciare quell'opposizione. Puoi abbracciare quella persecuzione. Stefano ha attraversato la sua persecuzione, ha attraversato la sua opposizione e l'attraversare questa opposizione e questa persecuzione lo ha portato a morire per il Vangelo di Cristo Gesù. È questo che significa salvati per salvare. C'è un prezzo che devi pagare. Devi scegliere di essere disposto ad abbracciare l'opposizione. Devi scegliere di essere disposto ad abbracciare l'opposizione. Non ti tirerai indietro. Quando troverai opposizione, non ti tirerai indietro, continuerai. Devi scegliere di attraversare quella persecuzione. Non avrai paura. Non avrai paura, perché Gesù ti ha chiesto e ti ha detto di essere forte e coraggioso. Devi scegliere di pagare il prezzo per vivere tutto questo, perché c'è un prezzo che io e te siamo chiamati a pagare per dare Gesù. Qual è questo prezzo? Forse la tua reputazione, forse quello che gli altri penseranno di te se tu inizi a comportarti così, o forse venire meno a delle tue abitudini che non sono una buona testimonianza, forse lasciare morire a delle cose che sai che sono sbagliate e che non danno gloria a Dio. C'è un prezzo che devi pagare. Forse il tuo egoismo. Sei sempre, sempre concentrato su di te e volevi quella cosa e non c'è, doveva andare così e non va là, ed è quello, e poi vedi a quello è così, e a me no. Siamo così egoisti, che siamo così, abbiamo fatto di Gesù la nostra slot machine, dove dobbiamo tirare la cloche fino a quando non arrivano le tre stellette. Quando arrivano le tre stellette, woohoo! Quando poi non arrivano, perché non è che possono arrivare sempre, ci dimentichiamo di chi è intorno a noi. Tu sai, tu conosci il tuo prezzo da pagare. Io conosco il mio prezzo da pagare. Però c'è una buona notizia. Il Vangelo è una buona novella, è una buona notizia. È il prezzo che tu devi essere disposto ad abbracciare e ad affrontare, tu puoi farlo perché Gesù ha pagato quel prezzo sulla croce in anticipo per te. Per questo nei tre Vangeli dice: chiunque vuole venire dietro a me rinunci a se stesso, prenda la sua croce. prenda la sua croce, perché lui l'ha presa quella croce, e l'ha presa per lui, mica per lui, l'ha presa su di sé per me e per te, l'ha presa su di sé per noi, affinché noi potessimo prendere la nostra croce, che lui ha anticipato, che lui ha pagato. È come quando vai al ristorante e non devi pagare nulla perché il conto sta già fatto. Amen. Sarebbe una buona cosa da fare. Sapete, la morte di Stefano ha segnato l'inizio della prima grande persecuzione dei cristiani. E questo può sembrare, a primo impatto, un'enorme catastrofe e fallimento. Era meglio se quello si stava zitto. Era meglio che quello continuava a mettere 4 fagioli e riso nei piatti con le patate e basta. No, doveva fare quello che operava i miracoli, doveva fare quello che pregava per le guarigioni di chi non stava bene. Qual era il verso che i nostri pastori ci hanno dato in questo 2023? Isaia 60, che cosa dice? Sorgi e risplendi perché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. E al verso 2 continua e dice, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore, la sua gloria appare su di te. Atti 7,55, che cosa abbiamo letto? Che Stefano, ripieno di Spirito Santo, mentre le pietre gli arrivavano addosso e iniziava a sanguinare e a fratturarsi il cranio e le costole, ha fissato gli occhi al cielo e ha visto la gloria di Dio. Che strano modo di sorgere e di risplendere. Mamma mia, tanti auguri, Antonio. Potevi starti a casa stamattina. Che sei venuto a fare? Attraverso la morte di Stefano, Saulo è stato evangelizzato. Attraverso la morte di Stefano, Saulo è stato evangelizzato. Vedete cosa dice uno dei teologi che ha scritto il commentario della storia di Stefano. Dice così, lo possiamo leggere. La morte del primo martire cristiano ha portato la più grande acquisizione che il cristianesimo abbia probabilmente mai fatto, la conversione di Saulo di Tarso. La visione di Gesù risorto ed esaltato, concessa a Stefano morente, presenta il cristianesimo a Saulo di Tarso sotto una nuova luce, portandolo a rimuovere quello che nella morte sulla croce di Gesù era stato il suo più grande scoglio. Questa rivelazione, unita alla splendida personalità di Stefano, alla testimonianza della sua vita retta e al nobile coraggio della sua morte sublime e soprattutto alla sua preghiera morente, toccò profondamente l'anima onesta di Saulo con una forza irresistibile e provocò inevitabilmente l'evento di Damasco. Sant'Agostino dice questo, ora vi do un po' di latino, così elevo le mie frasi in barese. Si Stephanus non orasset, ecclesia Paulum non abuisset. Che cosa ha detto Sant'Agostino? Che se Stefano non avesse pregato, la Chiesa non avrebbe avuto Paolo. E sapete, è Paolo stesso che lo conferma e lo dice, sempre negli Atti degli Apostoli, alla conclusione del suo terzo viaggio missionario, quando ritorna a Gerusalemme, sa che sarà imprigionato, legato e portato davanti al Sinedrio, al verso 19 del capitolo 22, dopo che ha citato tutto il Nuovo Testamento, il Vecchio Testamento, e ha spiegato chi Cristo era, conclude il suo discorso dicendo, e io dissi, parlando di come lui ha incontrato Gesù, Signore, essi sanno che io incarceravo e flagellavo nelle sinagoghe quelli che credevano in te. Quando si versava il sangue di Stefano, verso 20, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo, e custodivo i vestiti di coloro che lo uccidevano. Stefano stesso ha riconosciuto davanti a tutti che in quel giorno qualcosa è successo in lui. E non so se voi avete mai riflettuto sulla chiamata che Gesù ha dato a Saulo. Cioè, quando Gesù si è rivelato a Saulo e ha mandato Anania, Anania non è che gli doveva dire: Saulo, Gesù ti ha scelto per essere il più grande testimone sulla faccia della terra e andare fino all'estremità della terra ed essere un discepolo e un apostolo di successo. No. Che cosa doveva dirgli Anania? Doveva dirgli che Dio lo aveva scelto perché lui, verso 16 di Atti 9, gli avrebbe mostrato quanto avrebbe dovuto soffrire per il suo nome. Cipicchiolina. Che chiamata entusiasmante, no? Eppure Saulo, davanti a questa chiamata di sofferenza, ha alzato la sua mano e ha detto sì, io voglio essere quell'uomo che deve scoprire tutto quello che ancora deve soffrire, perché io so che Gesù può salvarmi affinché io possa portare quella salvezza. E io sono sicuro che quando Gesù si è rivelato e gli ha detto quelle cose, Saulo aveva in mente esattamente la morte di Stefano sotto quelle pietre. Lui se l'è immaginata. E io vi dirò di più. Io sono sicuro che davanti a quella morte, lui abbia pensato quel giorno, questo è un pazzo, questo Stefano è un folle. Cioè, noi lo stiamo uccidendo. E lui vede la gloria di Dio e prega Dio, in cui io credo, che non possa imputare a me la sua uccisione. Wow! È un pazzo! E secondo me, in fondo, quando poi Saulo appoggiava la testa sul cuscino la sera e si metteva a dormire, tutti i pensieri iniziano. E si ricordava di tutte le persone che aveva incarcerato, imprigionato e perseguitato, il pensiero a Stefano gli andava. E diceva, no, ad avere io quello che aveva lui, a credere io in qualcosa che lui crede. Sarei disposto a fare quello che lui sta facendo. Sarei disposto ad abbracciare e attraversare quello che lui ha attraversato. La verità è che quando ti sembra che tutto quello che hai fatto e detto ti ha portato in un vicolo cieco, Dio ha il potere di far cadere quelle cataratte dagli occhi e ridare la vista a quel vicolo cieco per aprire una strada maestra. La morte di Stefano è sembrata un vicolo cieco. Tutti a morte. Non c'è speranza, non c'è soluzione. Eppure ad un certo punto Anania ha imposto le mani su Saulo e quelle cataratte dagli occhi sono cadute. E Saulo ha aperto i suoi occhi. E quel vicolo cieco ha acquistato vista. E quella vista ha portato ad una strada maestra. E il Vangelo è arrivato a noi a Roma. Perché Saulo, che è diventato Paolo, è stato più pazzo forse di Stefano ed è arrivato fino a Roma. Stefano non ha mai avuto la soddisfazione di vedere Saulo diventare Paolo. Stefano non ha mai avuto la soddisfazione di vedere Saulo diventare Paolo. Ma non per questo non ha sacrificato se stesso fino alla fine. Ora, quale soddisfazione non incontrata ti ha fatto smettere di dare Gesù sempre e comunque? Bella domanda che mi sono fatto. Quale soddisfazione che tu volevi trovare nel dare Gesù a quella persona e non l'hai trovata, ti ha fatto smettere di dare Gesù? Non vale la pena. L'ho detto tante volte. Mi sono stancato. Sai, in questi anni in cui, da quando conosco Gesù, ho imparato che le persone non devono dare soddisfazione a me e a te. Ho imparato che io e te siamo più grandi della soddisfazione che vogliamo cercare nelle persone quando gli diamo Gesù. Perché Dio è la nostra soddisfazione. Giusto? O ci sfugge ogni tanto? È quello che lui ha messo in noi, un fuoco che non si può spegnere. E noi ci siamo costretti, è partito, a dare Gesù fino in fondo, perché c'è qualcosa che brucia dentro di noi, che ci dà un'urgenza, perché siamo stati salvati per salvare, e il nostro sì attiva un effetto domino attraverso la storia della nostra vita. E ve lo voglio dimostrare. La lavagna, per chi me l'aveva chiesta, eccola qui. Milena mi ha detto, è la lavagna? Ho detto, certo, Milena. Ci siete? La vedete tutti? Allora, abbiamo detto, c'è Stefano. Oh, scusate. C'è Stefano. A un certo punto Stefano muore e incontra Saulo. Vero? A un certo punto Saulo va a Damasco per portare la persecuzione e incontra Anania. E da Saulo diventa Paolo. Siete con me? E Paolo poi parte per il suo primo viaggio missionario e va dai Galati. È una fetta di persone, è influenzata da quello che è il suo messaggio di salvezza. E quella fetta di persone, chissà quante altre fette di persone, famiglie ha incontrato. E poi Paolo riparte per il suo secondo viaggio missionario e incontra i Corinzi, e poi incontra i Tessalonicesi, e poi incontra i Filippesi. E nei Corinzi porta la salvezza. E i Corinzi portano la loro salvezza. Tant'è vero che hanno così bisogno di salvezza che gli scrive due lettere, perché non hanno capito bene il fatto. E poi va a Tessalonica e incontra i Tessalonicesi e edifica la chiesa, e la chiesa si espande in tutte le città vicine a Tessalonica. E poi arriva a Filippi e incontra i Filippesi. E poi parte per il suo terzo viaggio missionario e incontra gli Efesini, e poi incontra i Colossesi. E poi parte per il suo quarto viaggio missionario per arrivare a Roma, dopo Atti 22, e incontra i Romani. E quell'effetto di essere salvato per salvare si replica, si ripete, e arriva fino a noi oggi. E io voglio spendere del tempo nel mio messaggio per intervistare una coppia straordinaria che ha permesso a noi di vederci qui oggi, perché se loro non ci fossero stati, noi non saremmo stati qui oggi. E ci alziamo in piedi, così ci sgranchiamo le gambe, e con un grande applauso, per onorarli, accogliamo il pastore Pinuccio e Sofia qui sul palco. Faremo giusto qualche domanda, qualche intervista, possiamo accomodarci, grazie. Per avere un po', abbiamo visto Stefano, abbiamo visto Paolo, abbiamo visto Anania, però questo è scritto e ci sembra così lontano. E invece forse il Vangelo è molto più vicino. E quindi io voglio un'esperienza vicina. E abbiamo preparato delle domande. La prima domanda voglio farla a Sofia. Ora, i pastori Pinuccio e Sofia sono coloro che hanno avviato la nostra chiesa qui a Modugno più di 50 anni fa, poi ora loro capiranno cosa condividere. Sofia è olandese e il pastore Pinuccio è di Tricarico. Quindi ora capiremo un po' come mai ci troviamo qui, va bene? Quindi la prima cosa io voglio chiedere a te, Sofia. Cosa è successo dentro di te che ti ha portato dall'Olanda qui in Italia? Ah no, aspetta, ho sbagliato il microfono. Scusate. Ok, una buona domanda. Io avevo accettato Gesù quando avevo 17 anni e questo ha cambiato la mia vita. Gesù che era in chiesa è diventato il mio Signore, il mio amico, il mio salvatore, il mio aiuto nelle cose pratiche. Ma poi passano un po' di anni e tutto inizia un po' a abituarsi. E mi trovavo in una fase un po' come un credente. Avevo perso un po' quell'entusiasmo e pensavo, era il giorno di Pentecoste, che è un giorno festivo in Olanda, e pensavo, che faccio? Non ho niente da fare. In Olanda piove molto. E ho pensato, se piove, che faccio? E poi ho pensato, va bene, c'è una conferenza che parla della missione. Ma forse vado. E ho telefonato al pastore che aveva organizzato, ho detto, senti, io perché lo conoscevo bene, ho detto, penso di venire domani alla conferenza, ma chi predica? Facciamo sempre quella domanda. No, perché lui voleva che venivo anche senza sapere chi predicava. E lui me l'ha detto, ha detto, se vuoi venire, vieni, ma non ti dico chi predica. Vabbè, e così sono venuta. E chi predicava, non avrei mai pensato, era fratello Andrea, colui che ha fondato Porta Aperta. E va bene, ero contenta, perché lui conosceva, aveva un bel messaggio. E stava ascoltando. In certo momento lui ha detto, ma tu lo sai perché tu sei nato in Olanda, dove c'è benessere, dove puoi andare alla scuola che vuoi, dove c'è libertà. Perché? E io ho pensato, vabbè, perché? Perché sono nata in una famiglia olandese. E lui ha detto, la Bibbia dice che Dio guida la nostra vita. E se tu sei nato in una nazione libera, dove puoi studiare, dove puoi lavorare, dove c'è benessere, non è per caso. Sei nato lì perché Dio ti vuole usare con tutte le ricchezze che hai. E io subito ho pensato a me, che devo fare? Perché lui parlava di Cina, parlava di Polonia, parlava dei credenti dietro la cortina di ferro. E lui continuava, diceva, Dio ti vede e Dio cerca operai. E lui nominava quel versetto che dice, fammelo leggere bene, chi manderò e chi andrà per me? Sai, il messaggio diventava sempre più personale. Sai, stai lì ascoltando e vedevo la mia vita. E va bene, alla fine lui ha detto, vorrei fare adesso un appello e voglio dirti, sei disposto di non solo credere in Dio, di non solo andare in chiesa, di non solo essere una persona brava, ma sei disposto di andare dove Dio ha pensato che è il posto per te? E così continuava. Parlava al mio cuore e poi diceva, se sei disposto di metterti in discussione, e di arrenderti a Dio e al suo piano, sappi che non sbaglia mai Lui. Ha il meglio per te, anche se sembra che devi fare dei sacrifici. Poi lui ha detto: chi è disposto, alzati in piedi. E io subito ho detto: io no. Ma ringrazio il Signore, perché fratello Andrea non si è fermato. Ha ripetuto e alcuni si sono alzati. E poi ho visto altri che si alzavano e io diceva: no, no, io ho paura. E fratello Andrea continuato ha detto: il Signore vuole avere proprio te. E io sentivo dentro di me: il Signore vuole proprio me. E io ho detto: no, Signore, no. Ma io sapevo che dovevo alzarmi. E mi ricordo ancora molto bene che mi sono alzato e ho detto: ok, Signore, ma non mi mandare in Cina. Mi sembrava così lontano e difficile. E come mai poi sei finita in Italia? Cosa ti ha portato ad avere, a ritrovarti qui? Un'altra lunga storia, ma faccio breve. Bravissima. Dopodiché, comunque, quando mi sono alzata, io ho sentito una gioia che non ho mai sentito prima. C'era la presenza di Dio. E c'era un'amica mia vicina a me e ho detto: che bello. Ma quella che io sentivo, lei non sentiva. Ero convinta, al punto che stavo davanti all'esame di maestro dell'asilo. Quando sono andata a casa, dopo un paio di settimane, dovevo fare l'esame. Sono andata al Signore e ho detto: Signore, vuoi che faccia ancora l'esame per... o vado già? E non sapevo nemmeno dove. E il Signore non ha mai fretta, vuole insegnare. E la prima cosa che mi ha dovuto e voluto insegnare, una cosa così importante. E questo è stato il versetto che dice: saciaci al mattino con la tua benignità, e noi esulteremo tutti i giorni e ci rallegreremo tutti i nostri giorni. Salmo 90, verso 14. Saziaci al mattino. Che cosa vuol dire? Noi non possiamo fare niente per il Signore se lo facciamo nella propria forza. Io ho dovuto imparare a prendere il tempo ogni giorno, leggere la sua parola, riflettere, parlarlo. Questo ha cambiato la mia vita, questo mi ha dato stabilità. Questo abbiamo bisogno, sperimentare il Signore. Come sono venuto in Italia? Diverse strade, perché tu pensi, io pensavo, sono andata in Spagna, è stata molto importante, 6 settimane, ho iniziato a studiare, a fare un corso spagnolo, pensando forse a Spagna, ho ricevuto in frattempo il lavoro, che era un miracolo, e dicevo sempre: Signore, che cosa vuoi tu che io faccio? E il Signore mi ha un certo momento parlato e ha detto: io ti manderò, ma ti voglio ancora insegnare delle cose. E l'ha fatto. Cose importanti. Come sono venuto in Italia? Quando ho ricevuto dal Signore il lavoro come maestro d'asilo, ho detto: ok Signore, questo faccio, ma finché dura questo lavoro, io so che poi cambia. Sentivo, dopo 3 anni, non che Alberto van Ome mi telefona, ci conoscevamo, e lui ha detto: Sofia, so che tu sei maestra d'asilo, so anche che hai lavorato con i bambini malati, non che vuoi venire a Tricarico qui nella casa dei bambini. Ho detto: Alberto, non lo so, devo riflettere, non so. E ho detto: Signore, io avevo detto, se finisci il lavoro, io lascio. Dopo 2 mesi, l'organizzazione della scuola mi chiama e mi dicono: signorina, questa classe, questo lavoro, in settembre non continuerà, perché ci sono meno bambini, ma non vi preoccupate perché abbiamo un'altra scuola e lì serve una direttrice. Ecco la scelta che dovevo fare. E ho detto: Signore, tu mi hai chiamato e io andrò in Italia. Ecco che sono venuti in Italia. Ora, pastore, quale effetto ha avuto la scelta di Sofia per le tue scelte? Io rispondo solo sì e no, va bene? Così. No. Logicamente io vivevo, cioè dopo aver accettato il Signore nel 68 al mio paese, la testimonianza di tutti questi missionari erano un forte esempio, erano una traccia incredibile, perché erano tutti ragazzi dotati o non dotati, capaci o non capaci, ma erano dedicati a servire il Signore. E io vivevo in questo ambiente. Come si dice, se vai col mugnaio ti sporchi di farina, non c'è niente da fare, ed è questo è bello. Allora io dico anche: scegli amicizie che sono coinvolte con il servire il Signore. Beh, è un poco ti sporcherai. Questo è immagine che io ho conosciuto Sofia quando ho incominciato anche a collaborare con loro, e lì avete visto com'è, era anche nelle attività pratiche alla stessa maniera. Dovevamo andare casa per casa a dare gli opuscoli. Allora era l'epoca molto degli opuscoli. Ora era il mio paese, io bussavo a una casa e ne saltavo 3. Perché? Perché io le conoscevo tutte le case. Quella era una stalla, quello era emigrato in Germania e qui non ha abitato mai nessuno. No, dovevamo tornare indietro e mettere anche nelle stalle sotto l'opuscolo. Allora, così ho conosciuto e così sono anche cresciuto. Quindi, dicevo prima, è come una pietra che rotola. Se si muove una pietra, inevitabilmente fa muovere anche qualche sassolino, e io ero uno di quei sassolini insieme ad altri. Perché? Perché vivevi quella situazione, e quindi come dire, era, era inevitabile che tu facevi alla stessa maniera. Ora, se tu frequenti chi sta seduto in poltrona, ti sederai anche in poltrona. Se tu frequenti chi, che ne so io, frequenta i ristoranti, frequenterai pure tu i ristoranti. Questo è inevitabile. Ma allora creiamo delle alleanze con persone che stanno servendo il Signore in una qualsiasi maniera, e anche noi ne veniamo coinvolti, travolti, e poi logicamente c'è anche logicamente, ma è la prima cosa, la chiamata del Signore, come anche Sofia diceva. E qui io voglio dare un avvertimento, dire attento a come preghi. Io ho pregato al Signore all'inizio nelle mie lunghe passeggiate, e mi ricordo ancora, ero vicino al cimitero, perché lì era una parte isolata, e lì io sentivo di voler servire il Signore. E io ho detto al Signore: Signore, io non lo so come, quando, se è possibile, non è possibile. Se fai rimanere questo desiderio dentro di me, vuol dire che ti servirò. È pericoloso. Perché il desiderio non l'ho più considerato, ma è rimasto lì nascosto. Quando poi mi è stata fatta una richiesta di collaborazione, boom, il desiderio è venuto fuori, mi sono sentito con le spalle al muro, e quindi non potevo dire né sì e né no, era la realtà. Pastore, una cosa che mi ha colpito delle nostre varie conversazioni è che una volta tu mi hai detto che l'evangelizzazione è proprio l'identità che noi abbiamo come Chiesa. Spiegaci, che cosa significa per te questo? Allora, innanzitutto noi, anche come Chiesa, tutti quanti noi, siamo nati dall'opera che altri hanno svolto direttamente o indirettamente nei nostri confronti, hanno testimoniato. E noi, come Chiesa, abbiamo continuato a fare questo. Non ci siamo chiesti se eravamo capaci. Noi abbiamo sempre riconosciuto la capacità, il dono, il carisma nel fratello Alberto, che voi non la gran parte non conosce, ma qualcuno sì. E lui era un evangelista eccezionale, sapeva predicare, sapeva fare contatti facilmente, dovunque andava, se andava a un bar, sempre doveva parlare del Signore. Noi avevamo un'altra tipologia di carattere, però abbiamo detto una cosa: in una maniera o in un'altra, noi siamo questo, siamo annunciatori della parola di Dio, e quindi questo continueremo a fare. Il Signore ci darà i mezzi e i modi. Non sempre erano mezzi buoni, non sempre i modi erano buoni, ma sta di fatto che noi non ci siamo mai fermati nell'annunziare il Signore. Quindi noi ce l'abbiamo nel DNA, non ne puoi fare a meno. Ti puoi nascondere, ma poi emerge. Perché? Perché se noi siamo Chiesa, e siamo Chiesa non per stare qui come stiamo, è anche bello, abbiamo avuto le sedie anche comode, dove più di qualcuno riesce anche a dormire, ma il nostro compito, no. La nostra indole è quella di andare fuori a chiunque e annunziare. Questo non vuol dire andare con le sette trombe, non vuol dire andare con megafoni, non vuol dire dover predicare, vuol dire semplicemente mostrare e annunziare Cristo in qualsiasi maniera. Sì, grazie. Sofia, ultima domanda per te. Ti è mai capitato di perdere quel fuoco, la passione per le anime che ti ha portato qui? Sì, logicamente siamo non sempre sopra la montagna, sono delle volte che andiamo giù o caschiamo giù, e un periodo non facile per me è stato quando mi sono ammalato con l'infarto e questo mi limitava. E poi il cambiamento nella chiesa, lo sapevate, prima avevamo il culto delle donne, tutta un'organizzazione per le donne, e poi il Signore ci ha fatto capire che non dobbiamo tenere separato uomini con uomini, donne con donne, ma che le coppie devono lavorare, imparare a lavorare insieme, così anche i gruppi sono cambiati, ma io con un fisico cambiato e un compito tolto, diciamo così, perché non facevamo più i culti delle donne, non c'era più tutta questa attività che nemmeno potevo più fare. E questo poi ha causato un crisi in identità, specialmente quando poi venivano persone, anche pastori, che dicevano: e Sofia, e tu che compito hai? E diceva: aiuto, non ho più compito. E lì il Signore ha... Quanto è buono il Signore, ma il segreto è sempre: o ti senti o non ti senti, prendere il tempo, sì, discutere con Lui, raccontare i tuoi sentimenti. E poi il Signore mi ha detto: la tua identità non c'è essere moglie di pastore o responsabile delle donne. La tua identità in me, sei figlia mia. Comportati come figlia mia. Amen. E questo è stato per me molto importante. Lui ha detto, non ridete, io abito in te. Io esco da te, dai tuoi occhi, dalle tue mani, usa i tuoi piedi, dalla tua bocca e anche dalle tue porie. E ho detto: porie, Signore, pensavo subito a puzza. Ma sapete che sta scritto che siamo un profumo di Cristo? Ecco la nostra, la mia identità. Sì. E un grande dono è stato quando Clarissa e io ci siamo di nuovo rivisto, rincontrato, abbiamo parlato dopo che il contatto era un po' più cambiato, abbiamo parlato, raccontato, lei aveva vissuto una tragedia, io come mi sentivo. Alla fine abbiamo pregato insieme, è stato così bello, proprio il Signore era con noi. E abbiamo detto a Clarissa: Sofia, facciamo un'altra volta. Praticamente siamo diventati alleati nella preghiera. Ogni settimana prendiamo il tempo, una volta più lungo dell'altra volta, per pregare per noi stessi anche, ma soprattutto per la Chiesa, per la nostra famiglia, per i giovani. Oh, i nostri giovani vivono una vita difficile, hanno bisogno, noi mamme, noi nonne, di preghiera. Vogliamo evangelizzare? Pensiamo per prima ai nostri figli, ai nostri nipoti, nella nostra famiglia. pregando, pregando. Mercoledì scorso abbiamo sentito delle testimonianze e mi ha molto incoraggiato, devo dire. Che cosa succede? Noi seminiamo. Noi seminiamo. Ma il seme è buono. Il seme è la parola di Dio. Il seme è forte. E in un momento lo Spirito Santo, quando noi preghiamo, può soffiare sul seme e può far nascere di nuovo sì. I nostri figli, i nostri nipoti, perché nulla è troppo difficile per il nostro Dio. Amen, amen. Ringraziamo i pastori. Ed è proprio così. Stefano non ha fatto altro che pregare e quella preghiera ha avuto un risultato. Siamo stati salvati per salvare e il nostro essere portatori di salvezza crea un effetto domino intorno a noi. E invito il nostro tastierista a venire. Ah, è già. Appari come lo Spirito Santo. Giuseppe e Sofia si sono incontrati e hanno creato la Chiesa. Giusto? Vi parlo di me. Emanuele di Carne si è convertito e ha parlato di Gesù a Francesco, a mio zio. E Francesco ha parlato a Nino e ad Angela. E io sono nato. E non dovevo nascere, forse. Parallelamente, Giuseppe e Sofia hanno avuto 3 figli, di cui uno è il nostro pastore Mirko. E Mirko andava a scuola con Karen. E poi a un certo punto Karen è cresciuta e ha rincontrato Mirko ed è venuta in chiesa e ha alzato la mano e ha accettato Gesù. E Karen ha incontrato una ragazza che si chiamava Simona. Step back, 1981. Ci siete? Mi seguite? Giacomo e Gianna si sposano, giusto mamma Gianna, nell'81. Giacomo, Gianna si sposano e hanno 2 figlie, tra cui Simona. E Simona viene in chiesa e incontra Antonio. E Antonio e Simona hanno 2 figlie che si chiamano Zora e Joy. Un altro passo indietro, a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale, in Russia. Valeri nasce, questo è ancora più interessante, si sposa, ha dei figli, cresce nel comunismo, gli viene insegnato che Dio non esiste, che Dio è una bugia, è un'invenzione. Valeri scappa dalla Russia e si trasferisce in Australia ed è ormai grande, non ha possibilità di fare lavoro, inizia a fare il manutentore presso una serie di edifici dove Antonio, che ha detto di sì a Gesù, vive. E io lo incontro ogni giorno quando torno dalle classi e lui era un po' anziano, simpatica la faccia, tutti lo prendevano in giro perché non sapeva parlare bene in inglese, quindi io lo comprendevo, mi sentivo vicino. E ogni volta che io mi ritiravo gli dicevo ciao Valeri, come stai? E gli sorridevo, basta, non ho mai detto altro. Ad un certo punto Valeri mi ferma e dice mia moglie è malata. Io voglio venire nella tua chiesa perché so che voi pregate per la guarigione. Quando posso venire? E io dico, ok Valeri, ti faccio subito sapere. Viene all'incontro di preghiera, la moglie accetta Gesù. Non lo vedo dopo qualche settimana. Lo rincontro in chiesa e lui mi dice, sai mia moglie è morta. Ma io sono qui perché so che Dio è vero, perché so che Dio esiste. E Valeri fa il corso... Il primo corso, non mi veniva, il corso di consolidamento 1, percorso 1, scusatemi, con tanti nomi che abbiamo avuto, mi sono intrippato, fa il percorso 1 e si battezza, io lo battezzo, accetta Gesù, inizia un gruppo in casa, a casa sua. E io e il pastore Giorgio andiamo una volta ospiti, quando eravamo lì, e lui invita tutti i suoi amici russi, che hanno tantissimi colori di pelle, tantissime nazionalità, perché la Russia è così grande che abbraccia tante etnie. Persone che non hanno mai sentito parlare di Gesù in casa sua. E lui apre la casa, mangiano, danno un messaggio. E qualche anno fa ricevo un messaggio da uno dei pastori dall'Australia che mi dice che Valerie è morto. Ma lui non è morto. Ed è così incredibile che un uomo nato a cavallo delle due guerre possa aver incontrato me dall'altra parte del mondo e possa aver incontrato Gesù. Quando noi siamo salvati per salvare, Gesù si usa della storia della nostra vita come un effetto domino per andare a toccare della vita delle persone intorno a noi. E chissà, quelle persone presenti in quel gruppo, con chi altre persone avranno parlato? E quante altre persone in russo, in Australia, rifugiate, politiche, hanno avuto la possibilità di conoscere nella loro lingua che Gesù è morto e vuole salvare la loro vita. Questo è il Vangelo. Alziamoci in piedi. Io voglio concludere pregando per noi, pregando che possiamo tornare a casa e alla luce della testimonianza che i pastori Pinuccio e Sofia ci hanno dato, alla luce della storia che Stefano ha scritto, possiamo sentire quell'urgenza. Possiamo dire: Signore, io voglio quell'urgenza. E io lo so che è tardi e che ci siamo dilungati, però io voglio fare una cosa old style. E non abbiamo tempo perché dobbiamo andare a mangiare e dovete infornare le vostre teglie. Quindi se volete dire di sì a Gesù, ora deve essere, senza che lo ripeto tante volte. Facciamo una cosa old style. Mentre il coro va, se tu dici oggi: io voglio dire di sì a far rinascere in me quel fuoco, o ad avere rivelazione di quel fuoco in me, voglio essere io quello che da domani va e infiamma tutto per Gesù, io voglio invitarti a lasciare il tuo posto e a venire avanti. Non ci sarà nessuno che imporrà le mani su di te, non ci sarà nessuno che ti farà domande, ci sarai tu e Gesù. Però tante volte, quando io sono venuto in chiesa e avevo bisogno di fare una scelta radicale, ho lasciato il mio posto e sono venuto avanti. E quell'azione pratica ha avuto un significato spirituale. E tu stamattina hai bisogno di fare un'azione pratica per riaccendere o per accendere quella fiamma spirituale dentro di te. Quindi se sei tu che vuoi stamattina dire: io voglio riaccendere quel fuoco, ora puoi venire avanti e vivere questo tempo con Dio, dichiarare queste parole che stiamo cantando, non come una canzone, ma come una dichiarazione di fede per te. Senza timidezza, senza vergogna, senza pensare a quello che gli altri pensano, perché tanto non ci interessa. Venite più avanti, non fermatevi sui corridoi. Viviamo questo tempo con Gesù. Viviamo questo tempo alla sua presenza, perché lui vuole trasformarci.